Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 5 giugno 2015. La cultura alimentare è più solida anche sul web. Internauti più attenti e sani. In Italia emerge una nuova generazione di internauti più critici anche sul fronte dell'alimentazione. Seppure restano numerose le trappole informative con indicazioni compiacenti e poco serie create per vendere questo o quel prodotto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Nutrizione, negli ultimi anni è in crescita il numero di coloro che si fidano solo di fonti accreditate per ottenere indicazioni utili a verificare il proprio regime alimentare. Fin qui la notizia del 5 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012, e in questo caso la strada appare ancora lunga, come spiega Andrea Ghiselli, referente per INRAN del sito sapermangiare.mobi. La rete sta diventando certamente un punto di riferimento per le informazioni di qualsiasi tipo. Il rischio grosso è che accanto a siti di strutture accreditate prolifichino siti di strutture meno accreditate e che vendono qualche cosa. E ovviamente saranno costruiti in modo da dare quelle informazioni che piacciono al consumatore, che sono praticamente tutte quelle indicazioni che lo deresponsabilizzano dalla sua alimentazione, no? Ecco, invece, quali sono i risultati ottenuti da Saper Mangiare come sito invece che punta a una informazione corretta sull'alimentazione? Per noi in 2 anni, anzi quasi 3, perché a luglio ne facciamo 3, che ne abbiamo messo in piedi questo sito Saper Mangiare, abbiamo fidelizzato molte persone. Ci sono decine di migliaia di persone che tutti i giorni visitano il nostro sito. Tra queste ce ne sono qualche centinaio che stanno utilizzando i servizi di Saper Mangiare, degli strumenti pratici che ci dicono quanto mangiamo bene, quanto mangiamo male e ci correggono eventuali vizi, fidelizzando l'utente, cioè spedendo nella posta elettronica di ogni utente un'informazione su quanto stanno mangiando correttamente. Dopo qualche mese di utilizzo abbiamo visto che gli utenti migliorano nettamente le loro frequenze di consumo settimanale, consumano molta più frutta e verdura dopo un pochino, consumano meno bevande alcoliche, consumano meno pane ma più pasta, meno prodotti da forno, tant'è che la stragrande maggioranza delle persone che all'inizio erano in sovrappeso si ritrova poi sempre in eccedenza ponderale, ma con un paio di chili di meno dopo un paio di mesi. C'è da dire però che le persone che frequentano siti come il nostro e che utilizzano oltretutto un servizio di questo tipo sono persone estremamente motivate a farlo. Certamente non cogliamo quella fascia di persone che sono le persone più bisognose di intervento nutrizionale, cioè quelle che sono resistenti al cambiamento. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.